Buona giornata a tutti negli studi di Radio 24. Oggi abbiamo una campionessa di windsurf, oro alle Olimpiadi di Sydney e reduce da un argento conquistato alle preolimpiche di vela che si sono svolte in agosto a Qingdao, in Cina. Sto parlando di Alessandra Sensini, che è qui accanto a me. Buon pomeriggio, Alessandra. Ciao a tutti. Allora, iniziamo parlando appunto del tuo sport, che è il windsurf, e facciamo un passo indietro, proprio quando tu hai iniziato a praticare questa attività. Come hai iniziato proprio questa passione? Ma io ho iniziato più o meno a 13 anni e avevo una grossa passione per tutti gli sport che mi aveva trasmesso mio padre, e il mio sogno era quello di diventare un atleta professionista o di fare dell'agonismo e di arrivare alle Olimpiadi, e niente, ho iniziato a fare diversi sport. Poi mio padre è sempre stato un appassionato di mare, mi ha sempre portato in barca, mi ha fatto fare nuoto, mi ha portato sott'acqua, quindi io conoscevo il mare molto bene. Quando è arrivato il windsurf sulle nostre coste, lui l'ha visto subito, ha comprato uno, ha fatto iniziare le mie sorelle, io ho tre sorelle più grandi, e poi piano piano ho iniziato anch'io, ma io ero molto piccola, quindi ho dovuto aspettare un po' prima di poter salire su questa tavola, che ancora era molto grande, non c'erano sicuramente le attrezzature che ci sono oggi, che permettono a ragazzini già di 6 anni di poter iniziare. Certo, e il primo impatto è stato positivo? L'hai amato subito il windsurf o all'inizio, insomma, c'è stata qualche difficoltà, qualcosa che non è andato proprio per il verso giusto? No, mi piaceva, però praticavo ai tempi basket e mi piaceva tantissimo da morire, quindi ero un po' pendevo molto per fare basket. Poi non c'era una grande squadra a casa mia, non vedevo un grosso futuro, e proprio per il fatto che io volevo diventare un atleta decisi, mi dedico di più al windsurf, dove riesco magari anche un po' a gestirmi da sola. In più a 15 anni vinsi il mio primo titolo italiano juniores, e lì la federazione mi convocò a un mondiale assoluto in Francia, e per me quella convocazione fu molto importante, perché proprio mi dette un grossissimo stimolo, vidi l'ambiente, mi piacque da morire e decisi per quello sport. Ecco, l'amore fortissimo poi è scoppiato a Barcellona durante le Olimpiadi, anche se insomma l'inizio non è stato proprio completamente in discesa. Ci puoi raccontare come andò? Ma Barcellona era la mia prima Olimpiade, io ero ancora molto piccola, soprattutto l'Olimpiade ti guarda in faccia dal punto di vista psicologico, e lì io iniziai abbastanza bene, ero praticamente seconda fino alle ultime due prove, poi le ultime due prove presi due partenze anticipate e quindi due squalifiche che mi fecero retrocedere fino al 7° posto. Devo dire che fu molto dura, perché una sconfitta insomma che sentii moltissimo e che forse mi ha dato poi il coraggio di riprendermi, di rialzarmi e di continuare poi con le Olimpiadi. Ecco, da quella delusione, quindi diciamo da quel piccolo scivolone di Barcellona, sei poi arrivata a un trionfo, quello di Sydney. E ci puoi raccontare la gara che decretò questo grandissimo successo per te? Ma Sydney, appunto, la medaglia d'oro era il coronamento di una vita dedicata allo sport, e io avevo vinto già il bronzo ad Atlanta nel 96, quindi comunque ero riuscita a salire sul podio olimpico, ero riuscita ad assaporare, no, quello che appunto era proprio vincere una medaglia olimpica, e lì mi ricordo che il giorno dopo di Atlanta ero già su windsurf che volevo fare un'altra Olimpiade, come dire, no, ho capito tutto, ora andiamo, ricominciamo e voglio arrivare alla prossima. e Sydney, poi eravamo dentro la baia, che è bellissima, come se regatare in uno stadio naturale, cosa per noi molto difficile perché normalmente sei in mezzo al mare, non vedi, non senti nessuno, sei da sola, e invece lì c'era tutto il pubblico intorno alla baia che si posizionava proprio in base a dove era messo il campo, e veramente riuscivi, era lì vicino a te, riuscivi a sentirlo, a sentire questo grosso tifo. E i miei erano lì presenti, e l'ultima regata per me fu incredibile perché durò 50 minuti e fu un testa a testa con la tedesca fino alla fine, fino in fondo, cioè ci sorpassavamo durante proprio il percorso, e insomma è stato il momento in cui ho tagliato il traguardo, veramente ero, non sapevo, non, penso di non essermi accorta, ecco, di quello che avevo fatto. Allora, una cosa che molti di noi non possono nemmeno immaginare, nemmeno credo molti dei nostri ascoltatori, è quello che scatta tra atleti convocati a partecipare a un evento così importante come un'Olimpiade. Quindi ci puoi descrivere cos'è lo spirito olimpico, cosa si sente, cosa si prova in quei momenti? Ma l'Olimpiade per un qualsiasi atleta è il massimo, cioè proprio il momento in cui, cioè io mi ricordo appunto da piccolina che sognavo di fare l'atleta, ma guardavo le Olimpiadi alla televisione, guardavo, il mio mito era Carl Lewis, insomma quando vinse tutte quelle medaglie a Los Angeles per me era un'emozione, quindi sognavo quello, e poi ti ritrovi dentro all'Olimpiadi e lì per lì non ti accorgi, però dici, ma no, fino a 4 anni fa le guardava la televisione, adesso sono io che sono dentro e sono una di quelli, no, degli atleti che faranno lo spettacolo, è abbastanza è abbastanza difficile da veramente da descrivere le emozioni che provi. Però ripeto, la massima ambizione per un atleta è arrivare alle Olimpiadi. Io dopo Barcellona avevo anche fatto 3 anni del circuito professionistico, quindi mi ero allontanata da quello che era la classe olimpica e ero riuscita ad arrivare anche a vincere il mondiale un anno, avevo delle sponsorizzazioni a livello internazionale, quindi comunque ero molto inserita in quello che era il circuito professionistico. Però poi alla fine, quando la federazione mi richiamò per fare le selezioni per Atlanta 1996, non resistetti al proprio richiamo olimpico e decisi di rischiare, perché per me comunque era lasciare un circuito dove io avevo una mia posizione sicura per tornare a fare un'Olimpiade dove, se fosse andata male, insomma, avrei un po' perso tutto, no? E però nonostante questo decisi di accettare il rischio. Ecco, dunque tu fai parte della Federazione Italiana Vela, tu trovi che questo mondo sia maschilista, ovvero tu sei una donna, e come vivi il rapporto con gli altri atleti della stessa disciplina o di discipline simili? Ma io non ho mai vissuto questa cosa in maniera negativa, cioè io ho sempre guardato avanti a me, ho sempre cercato di andare per la mia strada e soprattutto di migliorarmi sempre e di dare sempre di più, quindi questo è stato sempre il mio pensiero fisso. Sono stata fortunata perché sono riuscita ad ottenere dei grossi risultati, e per il momento i miei risultati non sono stati forse eguagliati nemmeno nel settore maschile, e quindi ho automaticamente acquisito un forte rispetto da parte dell'ambiente maschile, quindi ecco, io ho risolto il mio problema così, però non penso che sia un problema. L'unica cosa è che forse sì, è vero che essendo una donna comunque certe volte devi dimostrare una volta di più, no, quello che vali, cioè ecco, un po' sicuramente sì, fai un po' più fatica rispetto ad un uomo. E trovi che questo valga un po' per tutti gli sport, secondo te, quelli che conosci? Beh sì, sì, abbastanza, ne conosco pochi di sport dove insomma forse i risultati sono messi nello stesso livello. Ecco, senti, cambiamo un attimo argomento. Il tuo main sponsor è il marchio Maremma Toscana e sei testimonial del portale In Toscana, quindi sembra che la tua terra abbia una grandissima importanza per te. Cosa ti piace della Toscana? Ma io guarda, dopo le Olimpiadi di Atene nel 2004 avevo deciso quasi di smettere, infatti mi ero presa un anno e mezzo, quasi due di pausa. Poi è nato questo progetto insieme alla mia terra, un progetto dove la provincia in prima persona si è messa, ha creato un marchio e ha voluto fortemente che creare un consorzio di aziende locali e di enti locali che appunto mi sponsorizzassero in questa campagna olimpica attraverso un marchio. Quindi questo marchio Maremma Toscana è presente sulla mia vela e io ho la responsabilità di portarlo in giro per il mondo e di far conoscere quelle che sono le eccellenze della mia terra. Per questo mi hanno permesso anche di potermi allenare di più a casa mia, nella mia terra, che dove io ho iniziato, ma dove poi subito dopo insomma ho un po' lasciato per potermi andare a allenare fuori. Adesso sono tornata di più a casa ad allenarmi e questo mi ha permesso proprio di poter anche insomma coltivare quelle che sono i miei affetti, qui è la mia famiglia, che sono le mie cose, e quindi anche pensare al futuro. Della mia terra penso che è casa mia e che alla fine ho girato tantissimo, però magari da piccola sognavo di andare a vivere a destra e a sinistra, ma poi alla fine sono sempre tornata a casa dove ho comprato una casa e quindi questo penso che già di per sé voglia dire tantissimo. Tu ami gli spazi della Toscana, immagino, perché è una persona che ama il mare, che pratica il mare, che vive in mare, credo ami gli spazi molto ampi che dà la campagna toscana. Ma sì, io amo un po' tutta la natura, mi piace stare in mare, mi piace stare anche appunto in campagna, in montagna, di andare in giro, di poter andare in bicicletta, in mountain bike, cioè i miei hobby sono un po' tutti gli sport, quindi ovviamente a casa mia posso veramente sbizzarrirmi e comunque essere soddisfatta. E poi non dimentichiamo che comunque è anche una grossa cultura la Toscana. Tu però mi facevi cenno poco fa al tuo amore per la natura, per l'ambiente. Effettivamente praticando il windsurf non si può fare a meno di amare proprio la natura che ti sta intorno. Secondo te esiste un modo giusto o un atteggiamento giusto dell'andare per mare? Quindi anche la persona che usa una barca da diporto. Sì, io sono sempre andata per mare, appunto, come ti dicevo prima, prima di iniziare a fare windsurf già conoscevo il mare molto bene. Io con i miei genitori passavo le vacanze estive in barca e dormivamo nelle calette, quindi mio padre pescava, si mangiava il pesce a bordo che pescava lui, cioè io ho sempre vissuto il mare e quindi mi ha sempre insegnato mio padre a viverlo in maniera corretta, in maniera rispettosa e per questo però certe volte devo dire che adesso quando vado per mare non sempre vedo persone ecco, che sanno come viverlo e delle volte questo può fare anche qualche danno. Ecco, questo progetto che avete appena presentato e che lega la Federazione Italiana Vela alle scuole agisce anche in questo senso, ovvero punta a far amare l'ambiente ai bambini e alle nuove generazioni? Assolutamente sì, la Federazione ha voluto fortemente questo progetto di scuola a vela, si chiama, e è un progetto di portare la vela all'interno delle scuole, non delle scuole di vela ma proprio delle scuole, delle istituzioni scolastiche, e con l'appoggio del Ministero dello Sport, il Ministero dell'Ambiente e dell'Istruzione. quindi un progetto molto interessante che partirà quest'anno e che vuole, l'obiettivo non è solo quello di insegnare ad andare a vela, ma proprio di insegnare la cultura del mare, di insegnare quindi a conoscere quello che è il mare, come starci, come viverlo, come le regole, perché prima cosa quello che ti dà una grossa importanza del mare è proprio che devi imparare le regole per viverlo, perché altrimenti può essere anche molto pericoloso, e quindi questo poi è un qualcosa che te lo porti dietro un po', che lo porti anche nella vita quotidiana. Ecco, questa tua ultima osservazione ci porta alla domanda conclusiva di questa chiacchierata, e che è: cos'è per te il mare? Per me, io passo più tempo, penso di aver passato più tempo in mare che in terra, quindi per me il mare è fondamentale, non solo perché diciamo è dove lavoro, perché il mio ufficio poi in fondo è il mare, ma è anche dove vado per, appunto, per le mie passioni, perché mi piace passare weekend in barca, mi piace andare a fare il bagno, mi piace nuotare, il mare è anche il luogo dove vado a rilassarmi, quindi sarà sempre presente nella mia vita. Ringraziamo Alessandra Sensini per la bella chiacchierata, noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento su Radio 24, a domani con Dialoghi sul Mare.